Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be. The foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. È sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra! Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà. E ben ritrovate, ben ritrovati a una nuova puntata del Porte di Tannhäuser, qui su Radio Wombat. Ciao a tutte e tutti. Buon 2025 per questa trasmissione che torna. Era in vacanza, io gracchio. Sì, anch'io gracchio assai. Mamma mia. No, forse sei tu che... Vabbè. È il cavo. Ma noi non lo toccheremo. Non lo toccheremo e ci salveremo così facendo. Porte di Tannhäuser, siamo stati un po' in vacanza effettivamente, abbiamo scialato come si dice a queste parti e, però in realtà abbiamo usato anche questo tempo per farci venire in mente un sacco di idee, di puntate. Quindi poi in realtà credo che i prossimi mesi a venire saranno proficui. Assolutamente. Porteranno tutti i doni del nostro studio. Assolutamente, tra l'altro insomma se volete ascoltarci, ascoltateci su RadioWombat.net in streaming oppure su 1359 onde mediocri, onde medie. Sì, e se volete scriverci posta wombat@insiberia.net, il solito indirizzo di posta al quale potete contattarci, noi vi risponderemo solerti, oppure potete provare a mandarci un vocale, si dice adesso nella modernità, la messaggeria, il cui indirizzo trovate sul sito di Radio Wombat, radiowombat.net, e sì, potete anche mandarci direttamente una registrazione, un vocale, quello che vi pare. Evviva! La mail l'abbiamo detta? L'abbiamo detta, quello che non ho detto è il pad diretta wombat.vado.li, il pad della diretta, se volete dialogare con noi mentre siamo in diretta. Ed è questo il caso di oggi, lunedì 20 gennaio, che partiamo un po' in ritardo, d'altronde la trasmissione precedente, Nervature, è andata un po' lunga, noi siamo andati ancora più lunghi, insomma abbiamo un po' sfalsato, ma insomma se ci state ascoltando in diretta ormai sapete che prendiamo un po' i tempi un po' così. Sì, esatto, molto, molto libertari in ma questo fatti, senso. Ma fatti, mamma mia. Sarò tutta la sera con questo gracchio che mi dà fastidio. Di cosa parliamo stasera? Allora, oggi parliamo di viaggi. Di viaggi, grandi viaggi in realtà nella fantascienza. Perché è abbastanza un topos, soprattutto devo dire di certa fantascienza, di quella un po' più classica. Sì, sì, sì. Così trovo nel pad della diretta qualcuno ha scritto vi voglio bene, chissà chi lo diceva, chissà quando, ma noi vogliamo credere che lo stesse dicendo. Grazie, anche noi ti vogliamo bene. Chiunque tu sia. E, sì, dicevamo, i viaggi, soprattutto nella fantascienza, quella dei primordi, la pre-fantascienza chiamata così, e giusto, quella di Verne in particolare, ovviamente ne parleremo abbondantemente. Quella esplorava, diciamo che prendeva il tema dell'esplorazione, del viaggio, come uno dei suoi temi prediletti, anche perché tutto il filone che parlava di macchine è venuto un po' dopo, tutta la questione legata alla scienza e anche, come vi dicevamo in altre puntate, dei pericoli legati alla scelleratezza della scienza, anche quelli sono arrivati un po' dopo. Una delle prime cose che si inizia a indagare e che viene comunque considerata fantascienza, almeno adesso, è l'esplorazione, perché effettivamente se parliamo dell'epoca moderna dell'Ottocento, di fine dell'Ottocento, l'esplorazione era un'attività molto, molto finanziata, molto importante, che insomma era sui giornali, finiva sui giornali, era una delle cose, insieme all'archeologia tra l'altro. L'archeologia anche un po' prima iniziava, ma insomma l'esplorazione, anche l'esplorazione del resto iniziava prima, però insomma l'esplorazione con finalità molto spesso colonialiste, ahimè, e tremendamente economiche, ma fatto sta che c'era anche una componente di fascinazione ovviamente per l'essere umano di scoprire territori a loro sconosciuti. Poi magari erano territori che erano conosciutissimi alle persone che già ci vivevano, ma noi no, e quindi questo senso dell'ignoto scatenava la fantasia, e quindi ecco che partono un sacco di romanzi. Tra l'altro, lo vedremo, sono anche molto uno spunto questi primi romanzi per fare della didattica, per insegnare la scienza alle persone. Quindi in realtà insieme al viaggio esplorativo si raccontava la geologia, la biologia, l'astronomia. Quindi in realtà questi erano dei, non a caso si parla di fantascienza, perché era considerato comunque una lettura educativa in qualche maniera, certo, che ti insegnava. Darwin stesso, no? Era un esploratore in qualche modo, anzi principalmente uno scienziato esploratore. E anche probabilmente tacciato di fantascienza, non con queste parole, sì, per le sue teorie. Ma poi tutti i grandi esploratori, già a partire chiaramente dal 400, i primi grandi famosi esploratori, 400-500, che hanno dato poi nomi, no, a molti, all'America, Amerigo Vespucci, no? Prima, non, sì, non solo Colombo. E poi dopo, giusto come quello dici te, il 700 e l'800 sono soprattutto, anche un po' il 600, comunque è l'epoca... Vero. Delle grandi esplorazioni che sì, magari mandi davanti uno scienziato, prima si mandava i preti, no? La scoperta. Esatto. Poi mandi gli scienziati, ma poi subito dopo dietro arrivano, no? Anche preti. Arrivano anche preti, poi dietro c'è, no, la grande era della Compagnia delle Indie, che ha spadroneggiato per quella parte del globo facendo il bello e il cattivo tempo. Mi viene in mente che in effetti anche c'è ragione che se partono prima le esplorazioni, partono prima anche i romanzi esplorativi, perché per esempio Il Milione di Marco Polo, esatto, effettivamente potremmo un po' metterlo nella fantascienza, perché comunque poi abbiamo capito che era abbastanza inventato, perlomeno non c'è certezza sì, di quel che sì, diceva. Sì. Però No, ci sono molte invenzioni, soprattutto poi quando si arriva alla parte, no, dei Mogul, l'India, quella roba lì che non ha mai visto veramente, no, ma si è inventato secondo quello che sentiva, le voci, dice che fossero le voci. Comunque affascinantissimo. Molto affascinante, la fantascienza, ma l'immaginazione fin da sempre c'è stato, prima si immaginava anche Dante in qualche modo un esploratore, no, del sottosuolo e del sopra, perché il mondo per loro finiva lì, di là delle colonne d'Ercole non c'era nulla, e invece piano piano si aprono gli orizzonti fino a che non escono dall'atmosfera. Addirittura, e là partiremo dopo un bel il pezzettino d'apertura, partiamo proprio da Jules Verne, che chicca così, lanciata così: la prima astronave concepita con verosomiglianza scientifica è con ogni probabilità quella immaginata da Jules Verne per il suo viaggio dalla Terra alla Luna, che ne parleremo velocemente, capito, con verosomiglianza scientifica, perché ci sono tanti altri esempi chiaramente di astronavi anche contemporanee a Jules Verne, però che avesse un senso scientifico e che poi effettivamente poteva in qualche modo portare alla creazione delle astronavi. Jules Verne si dice essere un po' il primo ad averlo scritto su carta. Mica scemo. Mica scemo. Allora, pezzaccio d'apertura e poi partiamo subito con Jules Verne e i grandi viaggi della fantascienza. My mother told me, son, let it be. sold my soul to the calling, sold my soul to a sweet melody. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. Leggero ritardo nel mixaggio perché mi è tornata in mente una... Hai avuto una visione. Esatto. Un'epifania. Ho appena finito di leggere l'ennesimo libro dell'Ursula Le Guin, che sappiamo, ormai sapete tutti e tutti, è il mio amore eterno, purtroppo irraggiungibile, forse anche per questo ancora più meraviglioso. E ho letto come si chiama? No, come? Te la tornavo in mente. No, il mondo foresta, insomma. Qualcosa del genere. Sì, ora mi sfugge perché poi oggi ho trovato la versione, invece il titolo originale, che era la parola del mondo che vuol dire foresta, sarebbe quello. Cioè che gli esseri di questo, che abitano questo pianeta, non chiamano la terra, il mondo dove abitano, mondo o terra, ma la chiamano foresta. Perché, insomma, c'è tutta una roba che vi racconterò a tempo debito. Però il fulcro di questo romanzo è il colonialismo spaziale. Cioè come si approccia l'essere umano quando arriva su un nuovo pianeta, no? E lo deve colonizzare. Però è una... no, c'è la Lega dei Mondi nell'universo dell'Ursula Le Guin. Quindi è un'umanità evoluta che in teoria ha studiato e sa come approcciarsi agli indigeni. Ma davvero ha perso il vizio? Il lupo o solo il pelo? Questo è un po'... non è solo questo, è molto altro, però alla base c'è questo. Quindi, prossima puntata, secondo me, fantascienza e colonialismo spaziale. Molto interessante. Ti confermo, tra l'altro, che si chiama il mondo della foresta. Il mondo della foresta, ecco. L'ho guardato sull'internet. Ecco, bravo. E conferma. Molto bello, molto molto bello, veloce, si legge veramente veloce. Ma oggi parliamo d'altro. Parliamo d'altro. Partiamo, come dicevamo, da Jules Verne, perché Jules Verne, scrittore notissimo, e probabilmente anche una delle prime cose in cui magari vi siete imbattute, ci sta, perché sono quei romanzi generalmente magari in versione un po' ridotta, in versione un po' edulcorata, che vengono fatti leggere anche abbastanza ragazzine e ragazzine come così primi romanzi un po' d'avventura. 20.000 leghe sottomarine, e dai, tocca. Poi io quando da grande ho scoperto che in realtà mi hanno dato le versioni ridotte, ci sono rimasta malissimo, sì, ma sì, vabbè. Fatto sta che sicuramente non ha grossa bisogno di presentazioni. Jules Verne c'ha degli episodi però biografici che vale la pena ricordare, perché non sapevo che, vabbè, Jules Verne nasce a Nantes nel 1828, quindi siamo all'inizio dell'Ottocento, e a 11 anni fugge di casa imbarcandosi su una nave diretta nelle Indie, cioè a me mi sta già simpaticissimo. Ma ahimè, beccato subito, non ha fatto tanta strada. Il padre, magistrato comunque, porca miseria, andava malissimo. L'ha ritrovato immediatamente a Pembeuf, nei paesi della Loira, quindi ha fatto veramente pochi metri. E però si dice che lui, questa fuga, era una fuga in India, ribadisco, nelle Indie, dietro l'angolo, a 11 anni, era motivata dal desiderio di regalare a sua cugina, di cui era follemente innamorato, una collana di coralli. Quindi insomma se l'ha anche studiata bene, probabilmente gli hanno detto guarda che là c'è le meraviglie, e lui ha detto vado, io vado. E niente, poi lo ribeccano, lo riportano indietro, e da lì prende una vita un po' più lineare, diciamo. Anche se i conflitti con il padre continuano, perché lui avrebbe voluto di base intraprendere studi umanistici, filosofici, letteratura e tutto quanto, era abbastanza un topo di biblioteca, e il padre invece magistrato dice no, a te ti tocca fare il mio mestiere, ti devo tramandare lo studio, certamente diventerai il mio clone, e quindi lo obbliga a fare i studi del magistrato. E quindi parte per Parigi e effettivamente porta a termine, obbligato, gli studi di giurisprudenza. Studi che poi a un certo punto comunque non lo portano da nessuna parte. Tra l'altro era un momento storico particolare, perché era il 48, comune di Parigi. Insomma c'era un bel casino in Francia in quel momento. Lui, e diciamo che i tempi universitari, essendo anche appunto come dicevamo un bel topo da biblioteca, come tante persone che nei momenti anche più turbolenti ci sono quelle persone che si buttano nell'azione e quelle che invece si rintanano un po' nello studio per varie ragioni, ecco lui si rintana nelle biblioteche, negli archivi, e fondamentalmente passa quegli anni a leggere tantissimo, frequentare anche i giri intellettuali dell'epoca, conosce Dumas, Alexandre Dumas, e insomma inizia a stringere vari rapporti e formarsi un po', formare la sua vita culturale, e inizia di fatto in barba a tutte le aspettative del padre a scrivere, e ne scrive libretti, operette, e poi inizia finalmente a prendere un po' l'aire e inizia a scrivere commedie, tragedie, romanzi e quant'altro. Poi si arriva un po' ai suoi primi successi nel 63, perché effettivamente va detto che in quel periodo, vi abbiamo parlato dei primi romanzi che avevano questa come dire, questa vocazione un po' didattica, venivano chiamati romanzi enciclopedici, non era l'unico Verne che li scriveva, però possiamo dire che effettivamente erano un po' un genere letterario anche commerciale, nel senso che comunque certo, era un buon investimento, una casa editrice, un editore probabilmente lo vedeva anche come qualcosa di abbastanza vendibile, e quindi il suo editore Pierre-Jules Hetzel ci investe dei soldi e gli fa scrivere i suoi primi romanzi, che poi diventarono molto famosi, in particolare un primo volume di racconti, 5 settimane in pallone, e poi da lì inizia un po' la sua carriera. 5 settimane in pallone è interessante perché è ispirato di fatto alle imprese pionieristiche di fatto dell'amico Nadar, il famosissimo fotografo, che vale la pena ricordare se non, insomma, non ci avete bene in mente, perché era un personaggio anche lui molto interessante, molto figlio del suo tempo, perché oltre ad essere un fotografo, insomma, sono molto famose le sue fotografie di personaggi dell'epoca, ma non solo, di tutto, e le sue sperimentazioni con quello che allora era un mezzo abbastanza nuovo e che quindi lui ha esplorato in lungo e largo. Ma è anche abbastanza notevole il fatto che fu un accanito sostenitore dei viaggi in aerostato, quindi gli piaceva volare e sosteneva lo sviluppo del pallone aerostatico e l'invenzione della mongolfiera e del pallone aerostatico. Quindi ne costruisce uno. E tra l'altro inizia a volare anche con questi mezzi, non solo, ma anche, e è il primo fotografo, a lui si devono le prime fotografie aeree, di fatto. Eh sì, tra l'altro lui appunto si convince, no, che l'aeronautica debba passare attraverso questi nuovi congegni. Sì. In particolar modo lui usa la mongolfiera, quella che noi chiamiamo mongolfiera, crea nel 63 crea un consorzio per la promozione appunto delle mongolfiere, dove Verne fa da segretario. Sì, bellissimo. Poi non gli è andata molto bene, va detto, però mi colpiva molto questo fatto che Nadar, che di base è conosciuto per le sue foto, perché sì, comunque era quello che potremmo definire adesso un artista, in realtà era anche un tecnico, uno scienziato, e insomma di fatto era un po' questa figura che adesso è meno frequente, dell'inventore, la persona che versatile, che sapeva fare diverse cose, che aveva molta curiosità e che quindi se si intrippava di palloni aerostatici poi ci perdeva la vita, mentre nel frattempo faceva però anche fotografie e 2000 altre cose. E interessante perché, cioè, oltre a interessarsene, lui non è che commissionava ad altri, lui le costruiva in prima persona, e quindi lui era anche un caricaturista. Ci sono, tra l'altro, spesso e volentieri anche nei libri di scuola si trovano caricature fatte da lui. Non si sa se perché non vai a leggere, no? È quando vero. Sei studente, ma spesso trovi proprio. Sì. E qual era un po' lo spirito del tempo? E quindi Jules Verne, che nasce e cresce in quello spirito lì, con questa grossa curiosità, questa grande immaginazione che ti scaturiva da tutte queste sperimentazioni e anche effettivamente possibilità, perché erano cose che veniva su cui la gente non è che ti rideva dietro, c'era anche un bel incoraggiamento a farle, a sperimentare. E diventano amici anche con Nadar, e quindi insomma 5 settimane in pallone, che questa raccolta di racconti nasce da quel humus lì. E così come anche I viaggi straordinari, che invece sono ben più famosi e che sono una raccolta di 62 romanzi e 18 novelle, quindi sta parlando un'opera, quasi un'opera omnia, si potrebbe dire, per alcuni scrittori si potrebbe dire così, e che dentro contiene tantissimi romanzi famosissimi e tantissime opere. Ora noi chiaramente non abbiamo il tempo, sennò avremmo dovuto fare una puntata interamente dedicata a Verne, che chissà, magari una volta arriverà, ma non è questa. Avremmo potuto, ma sì, non è questo il momento. E vi parliamo di alcuni romanzi e di alcune opere in particolare incentrate sui viaggi, perché abbiamo dovuto scegliere e ci sembrava, certo, più interessante. E perché la fantascienza parte da qui, parte dai viaggi fondamentalmente, su, sopra, sotto, no? O sotto terra, soprattutto sotto il mare, per Jules Verne. Poi il suo non successore, ma insomma l'altro grande capostipite, abbiamo detto mille volte, Wells, e anche lui comunque ha, e ne ora parleremo a breve, però anche lui ha un po' il viaggio al centro della questione. Eh sì, tra l'altro sì, evidentemente era così il mood del momento anche. Eh certo, i confini che si espandono, e quindi anche la mente che si può espandere verso novità, e non il solito. Sì, sì. No, pensavo volevi aggiungere. Partiamo dal viaggio al centro della Terra, che è un po' il viaggio per antonomasia, sì, dei racconti di Jules Verne. Viaggio al centro della Terra, devo dire, a me piaceva moltissimo, Sì. Vi svelo che avevo questi, li avevo quasi tutti io questi romanzi di Verne, in una versione anni 80 mi verrebbe da dire, enorme, grande, con scritte grandi, e la copertina rigida, e io la usavo per fare i banchi di scuola dei miei peluche, cioè, bellissimo, sì, c'avevo questo uso creativo dei libri. E quindi però ogni tanto mi capitava di leggerli, quindi non è che li leggevo per intero, però ogni tanto un po' li E Viaggio al centro della Terra mi piaceva un sacco, mi piaceva, e devo ammettere, anche tanto che siamo tra di noi, senza pudore, che comunque mi ci intrippavo, cioè io ero convinta che avessero ragione. Certo. Cioè, che comunque al centro della Terra c'è di tutto. Chiaro. E noi, cioè in fondo, se ti metti a scavare, e confesso di aver scavato spesso. Lo so. Cercando, e poi dopo un po' mi arrivava mia madre e mi diceva che hai fatto? Però a me non è mai tornata, invece, no, perché c'era quella leggenda, almeno a me da piccino mi veniva detto, non tanto dei miei genitori, ma comunque c'era in giro, che se scavavi tanto arrivavi in Cina. Certo, sì, è ma vero. Nel mezzo cosa c'è? Non torna, ragazzi, quello che mi state dicendo. Ma anche questa cosa che poi vai di sotto e se non sei a testa in giù, cioè è tutto molto strano. Esatto, molto strano. Romanzo d'avventura in cui fondamentalmente il protagonista è insieme a un gruppo di avventurieri, la famiglia poi, tra l'altro, con figli appresso, si addentrano in un vulcano per arrivare al centro del mondo, per l'obiettivo è trovare questa civiltà preistorica che teoricamente ci dovrebbe essere laggiù. Eh sì, ma e partono giustamente dal vulcano, anche lì studi sui vulcani erano abbastanza pionieristici, e non si avevano ovviamente le attrezzature che abbiamo adesso anche per indagare. Adesso non sono così ferrata in materia, ma penso che in parte si siano abbastanza svelati quasi tutti i segreti di cosa c'è al centro della Terra. Effettivamente siamo riusciti abbastanza a individuare tutta la faccenda, tutto il carotaggio, diciamo. Al tempo no. Ma dici? No, anche adesso forse ci sono dei dubbi. Il carotaggio, cioè, no, vabbè, ci sono degli strumenti adesso che ti permettono di non per forza, no, bucare la Terra. Puoi scoprire attraverso le onde. Altri modi, esatto. E però a carotare, secondo me c'è un limite in cui arriviamo. No, quello, cioè, no, è vero. A un certo punto non buchi, perché... È vero, però attraverso appunto vari altri metodi si è potuto capire, per esempio, quali strati sono più densi, quali meno. Insomma, un pochino un'idea ce la siamo fatta. Faccio un piccolo inciso, perché per l'appunto l'altra sera mentre cucinavo ho detto, vabbè, accendiamo la televisione, non la guardo mai, accendiamola per tenerla in sottofondo, e c'era Armageddon. Oh. E mi ha fatto un sacco ridere, non avevo mai ben riflettuto che il mondo è messo in mano a dei trivellatori di petro, di insomma, americani trivellatori, cioè, in effetti è vero, è proprio un film dei nostri tempi, porca miseria, è sul pezzo. A proposito di trivellare, appunto, comunque andiamo oltre. Ebbene, d'altra parte Trump oggi l'ha detto, che il futuro è nel petrolio. È vero. E quindi sì, loro che appunto non avevano magari tutte queste conoscenze al tempo, comunque si immaginano finalmente di poter capire che cosa c'è dentro al centro della Terra e andarci effettivamente, proprio non solo fare un carotaggio, ma entrarci proprio. Esatto, tutto parte da un romanzo ritrovato, come spesso accade in questi grandi romanzi, no? Il protagonista, il professor Lindenbrock, trova questo libro molto antico con le rune islandese, quindi se... dove ci sono tanti bei vulcani, no? Sì. Dove c'è scritto, insomma, comincia a studiarlo, dove sembra esserci scritto e c'è questa, insomma, c'è una via per scendere nel sottosuolo. Esatto, e lì iniziano un po' questo viaggio, dove questo viaggio fondamentalmente li porta a conoscenza di questa civiltà preistorica che sta nelle viscere della Terra, fondamentalmente, e lì scoprono, e il romanzo è, come tutti i romanzi di Verne, effettivamente un lungo susseguirsi di meraviglie, di scoperte, di cose incredibili. E a un certo punto loro, vi spoileriamo, comunque riescono, non muoiono lì dentro, ma riescono a uscire portati fuori dal magma. A un certo punto questo magma vulcanico che c'è anche lì nelle viscere della Terra, a un certo punto trova delle vie, loro con esso escono fuori e si ritrovano dove? Tornano in superficie. Dove si ritrovano? A Stromboli. Già, è vero. È così. Ci sta, sono tutti gira e rigira, si torna a Stromboli. È giusto. Devo dire che la parte che mi ha sempre più colpito è la foresta di funghi enormi. Bellissimo, sì. Sì. Funghi enormi e ossa anch'esse enormi. Esatto, perché loro a un certo punto si trovano, si svegliano vicino appunto a questo lago, sulle cui coste ci sono questi funghi enormi, e dove ci sono anche queste ossa gigantesche. Quindi iniziano fondamentalmente a andare sull'acqua con la zattera, anche la parte della zattera è abbastanza iconica. Perché è un lago enorme, quindi è quasi un lago mare, perché non vedi la fine, no? Sì. E all'interno di questo lago mare ci sono degli animali sconosciuti, o lui ci mette questi dinosauri che probabilmente già avevano scoperto gli archeologi, sì, credo. Penso anch'io, sì. L'ittiosauro, il plesiosauro. Sì, sì. Erano gli anni, comunque, in cui si facevano queste scoperte, sì. E alla fine arriva Stromboli, bellissimo, il 29 agosto, così. Bellissimo. Questo è il primo. Vuoi aggiungere qualcos'altro? No. Questo è uno il primo grande viaggio raccontato, no? Da eh sì, il viaggio al centro della Terra. Dal viaggio al centro della Terra si passa invece a tutt'altra situazione, ovvero all'acqua, 20.000 leghe sotto i mari, ovviamente. Qui abbiamo abbastanza un topos della letteratura, ovvero il Capitano Nemo, che viene ricordato spessissimo, citato in mille modi. E anche qua la descrizione del sottomarino del Capitano Nemo, il famosissimo, esatto, Nautilus, anche lì citato, stracitato, ha dato il nome a un sacco di robe, compresa una casa editrice, precorre il suo tempo. Perché anche questa anticipa in realtà, con una precisione abbastanza incredibile, varie caratteristiche dei sottomarini moderni. Anche qua, come abbiamo detto in altre situazioni, non è che Verne era un mago o era, non so, un veggente. È che probabilmente aveva capito come, dove stava andando la direzione e anche dove si sarebbe poi investito. Cioè, se tu puoi costruire un sottomarino e hai delle capacità e inizi a costruirlo, però poi lo vorrei potenziare, vorrai fare in modo che abbia delle caratteristiche sempre migliorate. Quindi il fatto che lui abbia pensato un sottomarino molto buono, che al tempo non era assolutamente, non erano in grado di costruire, però non è che vuol dire che era un genio, secondo me. Però comunque sì, effettivamente gli va dato atto che ha saputo descrivere abbastanza dettagliatamente, minuziosamente, un sottomarino che, cioè, all'epoca non c'era. Perché, cioè, no, quando si parla di genio si parla di Leonardo da Vinci, che in tempi oggettivamente non sospetti ha tirato fuori dei macchinari che nessuno si era mai neanche, sì, immaginato. E va bene. Era un po' un pazzo anche lui, era spostare un po' le mani, esatto, in montagne. Infatti anche lui, no? sì, esatto. Anche lui si inventa il sottomarino. Un sottomarino che non ha grandi pretese, non pretende di andare in fondo all'oceano, cosa che invece, probabilmente prendendolo anche proprio da Leonardo da Vinci, invece Jules Verne pensa. E pensa quali siano, quali possano essere. A quel punto tutta Bohr, la pressione, tutta la roba lì c'era, si sapeva. E quindi da questi spunti qua, era comunque un intellettuale, una persona che aveva studiato, ricco, comunque figlio nerd di, che si intrippa. E nerd. E però è il primo anche qui che crea un qualcosa scientificamente molto veritiero. Tra l'altro erano gli anni dell'esposizione universale, non l'esposizione universale di adesso, fuffose, cioè, o meglio, magari anche quelle erano fuffose, ma meno, no, voglio sperare che fossero, no, di meno. Lì erano, no, le grandi nazioni che mostravano i muscoli. Esatto. E pare che Verne si catapultò ovviamente all'esposizione universale di Parigi, già, è vero, del 67, e vide, ebbe modo di vedere questo sottomarino plongeur che venne esposto come appunto chiaramente pionieristico, assolutamente innovativo. E lui, insomma, non è un caso che poi ci scrive il Nautilus, il Nemo e del Capitano Nemo. 20.000 leghe sotto i mari, altro grande viaggio, viaggio, molta buona parte del viaggio è dentro un cubicolo, oggettivamente, e quindi la bellezza a me che mi ha sempre dato questo romanzo è appunto questo, sei tu un po' l'acquario, diciamo, e il mondo ti passa attorno e scopri solo vedendo, non puoi toccare, non puoi, e quindi l'immagine della grande piovra gigante che gli passa nell'oblò è... ragazzi. Bellissimo. Immortale. Bellissimo. Veramente incredibile. Tra l'altro anche qua l'abbiamo già detto in altre puntate parlando di cose simili. Mi sembra c'è una Mieville, non mi ricordo. Però quelli erano gli anni in cui si iniziano a ritrovare i grandi totanoni, cioè i grandi calamari giganti. I Kraken, di fatto. Sì. Perché, come abbiamo già detto, in maniera abbastanza ancora non spiegata, ma ogni tot anni, ogni 200 anni, una roba del genere, a un certo punto si spiaggiano dei Kraken o comunque dei grossi, delle grosse creature marine che normalmente adesso stanno nelle profondità dell'oceano, in degli strati, diciamo, talmente lontani che noi esseri umani non riusciamo a vedere. E poi a un certo punto succede che si spiaggiano e arrivano a noi. Questi fenomeni fecero grandi scalpore, perché effettivamente successe in più di un episodio in quel periodo che vennero ritrovate. Addirittura si parla di, poi non si è mai capito se erano leggende o se era vero, barche assalite da questi grandi Kraken, sì. Cose del genere. Di fatto comunque la cosa effettivamente comprovata che successe davvero, anche perché insomma succede periodicamente, è appunto questi ritrovamenti di enormi Kraken, che insomma erano una roba veramente immensa. E da lì è chiaro che ti parte il cervello, inizi a dire ok, allora là sotto c'è i mostri, c'è di tutto, chissà che cosa c'è lì dentro. Quindi anche lì Verne, come dire, ha il pregio di far galoppare la fantasia, partire da un episodio in fondo di cronaca di base, sì. E portarlo agli eccessi infiniti, senza aver pudore di dire ma chissà che cosa ci potrebbe essere, ora me lo invento. Che poi di per sé non è tanto il mito di Atlantide, no? Perché che è una roba abbastanza... No, infatti. Quindi non è una civiltà di per sé sotto il mare, ma è un'esplorazione pura. Molto più scientifica, perché effettivamente aveva delle basi. Ora, al di là che molto spesso Verne poi si lancia in delle robe che chiaramente le leggi ora e dici no, ok, vabbè, questo era un po' ingenuo, non è veramente così. Però avevano una base scientifica, di fatto non si va a inventare il paradiso o l'Eden con Adamo e Eva o cose completamente... No, lui si va a inventare una roba che in fondo è abbastanza verosimile, nel senso che comunque... Ora, il viaggio al centro della Terra no, però 20.000 leghe sotto i mari parla di creature marine che stanno in profondità e che effettivamente esistono. Cioè adesso sappiamo abbastanza dare, non ancora benissimo, perché cioè, le profondità degli oceani ancora ci sono abbastanza ignote. Davvero, davvero. E questo aprirebbe capitoli immensi, però... Abbiamo un'idea che in fondo non c'era andato così lontano, ecco, che in fondo queste creature enormi che sono per noi indietro di millenni, effettivamente ci sono, e quindi non è che si inventava proprio. No, esatto. E molto bello, molto bello. Mi sono venute in mente mille cose anche di film che ho visto su ciò che accade in fondo al mare, quindi ho messo fra le idee... anche questo, dedicare una puntata a quello, perché avrei diverse storielle da raccontare di cose che ho visto, poi probabilmente le avete viste anche voi. Sì, ma poi c'è Moby Dick, c'è tutte robe che si incrociano e che si intrecciano, che colpiscono l'immaginario, queste creature marine gigantesche. Ora, chiaramente c'è ovviamente un misto sempre, perché siamo nell'Ottocento, siamo nell'Occidente francese, colonialista dell'Ottocento. Comunque l'atteggiamento predatorio c'è sempre, cioè io voglio possedere questi segreti, cioè la natura io la voglio conoscere per possederla, questo c'è, è innegabile, c'è in Verne, così come c'è in tantissima di quella letteratura di quel momento. Però è un po' ambivalente, è il bambino che vuole conoscere le formiche e le spiaccica, cioè è strano, in fondo non mi sento neanche di... ridurlo solo a mero capitalismo, vabbè, no. Perché volevano ammazzare tutti. No, dai, c'era anche un proprio... C'era molto romanticismo anche in quel... E inconsapevolezza, chiaramente. Sì. Però, insomma, per finire sui viaggi di Verne all'interno della sfera terrestre, diciamo, ci sono i viaggi straordinari. Viaggi straordinari, che era, come abbiamo detto, una... allora inizialmente sono 54 romanzi, poi le aggiunge sì, perché non sì, bastavano. Esatto. E insomma, titoli postumi, cioè quindi che vengono aggiunti dal figlio, insomma, di base si parla di un come si diceva, di una mole infinita. E dentro c'è romanzi e racconti, come dicevamo, e ci sono moltissime di queste componenti che vi abbiamo detto adesso. All'interno ci sono il citato 5 settimane in pallone, come vi abbiamo già detto, ma anche le avventure del capitano Atteras, non so neanche come si legge. Atteras, sì, hai detto bene. Atteras, viaggio al centro della Terra, ve l'abbiamo detto, dalla Terra alla Luna, di cui parleremo, insomma ce ne sono vari. I figli del capitano Grant, 20.000 leghe sotto i mari, intorno alla Luna, una città galleggiante, so, ce ne sono tantissime. Avventure di 3 russi e 3 inglesi nell'Africa australe, che sembra una barzelletta. C'è il giro del mondo in 80 giorni. E c'è il giro del mondo in 80 giorni, ovviamente. Nonché l'isola misteriosa. Ah, insomma, bellissimo. Ce ne sono tantissime. E, devo dire, io ce ne sono alcuni che mi sono piaciuti, che sono anche meno noti. La Begum, com'è che si chiamava quello della Begum? I 500 milioni della Begum. Ah, sì, sì. Anche sì, quello, sì. Un romanzo abbastanza in Italia poco conosciuto, però molto divertente, molto bello anche quello. E tutti hanno in comune questa questo inizio di questa formazione di un gruppo, diciamo. Cioè si forma l'impresa, quindi per qualche ragione diversa, può essere per necessità, per voglia o perché, si forma un gruppo e questo gruppo decide di darsi o viene obbligato a imbarcarsi in un'impresa straordinaria. E può essere anche un'impresa banalmente di scoperta scientifica o anche di costruire una cosa, un nuovo manufatto, un nuovo mezzo di trasporto e volerlo provare, spingere alle sue estremi. Tra l'altro dice che Jules Verne rimane a tutt'oggi l'autore di romanzi più tradotto al mondo, solo secondo, pensa te, ad Agatha Christie. Pensa te. Avrei detto altro, invece sì, Agatha Christie. Sì. No, boh, fra tutti, però sai, ma i gialli, ragazzi, non moriranno mai. Massimo, povera Agatha. No, no, centauri, adoro Agatha Christie, assolutamente. Sì. Bene, allora ci fermiamo un secondino per riprendere fiato e poi invece ci spostiamo un attimo, prendiamo e guardiamo meglio appunto dalla Terra alla Luna, appunto il primo romanzo che esce un po' dalla Terra praticamente, e quindi è qui che comincia a nascere la fantascienza. E stavamo correndo sulle note di Running in 90s, appunto, correndo negli anni 90, rendeva bene l'idea, effettivamente. Immaginavo questi cabinati. Esatto. No? Molto, molto belli, molto belli. In realtà noi facciamo una corsetta indietro di mezzo secolo, direi, più o meno. Perché c'è un altro grande romanzo. Qui abbiamo finito, vero, Jules Verne, abbiamo detto. No, c'è cioè, dalla Terra alla Luna, no, cioè, aspetta. Troppo veloce. Non correre, ora si sei fatto prendere dalle corse. Sorry. Sì, l'ultimo di Jules Verne che indaghiamo è dalla Terra alla Luna, perché come dicevamo abbiamo guardato più o meno la Terra, compresa anche gli oceani, la Terra proprio in fondo dentro nelle viscere. Ma a un certo punto Verne non gli basta più e dice ok, usciamo da qui e andiamo sulla Luna. Quindi scrive dalla Terra alla Luna. Mi fa molto ridere che il sottotitolo del romanzo si chiama Tragitto diretto in 97 ore e 20 minuti. Oh, cioè comunque, ragazzi, preciso, questo è il titolo. La corriera. Questo è il vero titolo della Terra alla Luna. Ed è stato scritto nel 1865 ed è un dittico. Perché parla appunto di viaggi lunari, sono uno è dalla Terra alla Luna e l'altro è intorno alla Luna, scritto pochi anni dopo nel 1870. E questo dalla Terra alla Luna, Verne anticipa l'allunaggio di fatto, quello che poi avvenne 100 anni dopo, come sappiamo. In realtà anche qui, beh, era secoli che l'essere umano sognava di andare sulla Luna. Quindi, insomma, Verne, perché no? Perché non provare a immaginarselo e dargli anche un contorno scientifico, in qualche maniera, di esplorazione. Quindi, viaggio nella Luna, dalla Terra alla Luna, scritto, come si diceva, alla fine dell'Ottocento. La trama è un po' quella che si diceva, c'è questo club, questo come gli altri romanzi più o meno, questa società, questo gruppo che si forma per qualche ragione e che a un certo punto annunciano, allora questi sono antipatici perché sono guerra fondi, sono un'associazione americana di artiglieri, non è un caso che lui francese questa roba gliela fa fare gli americani comunque. E che dicono, annunciano di aver inventato un cannone capace di sparare un proiettile in grado di raggiungere la Luna. Quindi e da lì fondamentalmente va bene il proiettile, ma lì si inizia a dire va bene, però allora bisogna entrarci dentro a questo proiettile e provare a raggiungere la Luna e farci non soltanto bombardarla, ma anche metterci degli esseri umani. E da lì c'è tutto questa trama che ruota intorno a questo esperimento e come va. E non va molto bene, se ve lo devo dire. Il romanzo non è molto ottimista. Ma dal romanzo viene tratto Viaggio nella Luna, un film del 1902 che conoscerete. Se non lo conoscete non vi viene in mente, è solo perché non associate il nome alle immagini famosissime. Film di Méliès, uno dei primi film della storia del cinema, ed è un film meraviglioso che Méliès scrive, gira appunto pochi anni dopo del romanzo di Verne, sono 5-7 anni dopo. La celebre immagine della Luna con nell'occhio il proiettile, quella è, cioè il missile, e in effetti Verne si era immaginato questo proiettilone, questo missile che viene buttato sulla Luna. E Méliès fa esattamente la stessa roba e la rende in film. E da lì, insomma, anche Méliès è un altro sognatore incredibile, per cui anche i suoi film, tra l'altro anche lì potremo indagare, potremo fare una puntata solo dedicata a Méliès, perché gran parte dei suoi film sono racconti fantastici di creature strane, di folletti, di alieni, di uomini della Luna, per l'appunto. E qui si immagina, viene portato all'estremo il viaggio di Verne, e gli esseri umani, questa spedizione, finisce col proiettile sulla Luna, Luna sorniona, umanoide che ride, un po' infastidita da questo proiettilone, ma in fondo bonaria, e gli esseri umani che vengono in questa maniera catapultati sulla Luna fanno conoscenza degli abitanti della Luna, che sono degli abitanti in realtà molto simili a come all'epoca venivano delineati i popoli africani, in realtà guarda caso. E lì ci sono tutta una serie di Méliès racconta tutta una serie di dinamiche in realtà comiche, tragicomiche, dove gli esploratori e i coloni, fra l'altro, non fanno una bella fine di fondo e sono abbastanza messi in ridicolo. E I coloni bianchi cioè anzi poi scappano con la coda fra le gambe, scappano e come vengono mandati via. E appunto, secondo il principio della gravità, se per salire sei stato sparato, basta scendere, la gravità ti porterà dalla Luna alla Terra. Io non ci vedo niente di sbagliato. Mi sembra che torni tu. Sì, i film di Méliès sono bellissimi, a me piacciono tantissimo perché sono un po' questo sogno candido, volutamente, dichiaratamente candido, in cui ti puoi immergere senza nessuna remora proprio. E vale tutto. Le leggi della fisica non ce ne può fregare di meno, va tutto bene, è tutto bellissimo come se lo immagina Méliès. Comunque mi veniva in mente che il primo a scrivere forse di viaggi nella Luna forse è l'Ariosto, però. Beh sì. Sì, non penso che Verne non potesse non averci pensato. Per forza, dai. Sì. C'hai un grifone, non la nostra nave, ma insomma. Sì, assolutamente. Assolutamente. Sì. E quindi altro, tra l'altro, segue al viaggio nella Luna di Méliès anche Chaumont, secondo De Chaumont, altro regista di pochi anni dopo, del 1908, anche lui rifà viaggio, Excursion dalla Lune questa volta, però insomma sempre lì siamo. E poi poco dopo ancora Trip to the Moon del 1914, un altro questa volta film d'animazione che purtroppo è andato perduto e non abbiamo. Quindi insomma, Verne ha scatenato dei bei mostri. Sì, assolutamente. E da qui secondo me poi ci sarebbe tutta una filone da approfondire, perché il viaggio è dato da un mezzo di trasporto e va bene. Il mezzo di trasporto che viaggia sul mare, sulla terra, ha delle cose che ci vengono in mente, che appunto già questi scrittori scienziati si immaginavano. Ma per andare fuori dalla terra invece ci vuole del propellente, ci vuole degli motori particolari. Ci sarebbe da parlare tanto di quello, per esempio, sì. Su come nella fantascienza si siano immaginati i vari propellenti, i vari motori, quello che... insomma, quello che poi porta l'uomo in giro per lo spazio. Ne parleremo sicuramente. C'è anche l'idea dell'iperspazio, giusto? Che per la prima volta forse arriva con Asimov. Questo balzo, questo salto. Però in realtà ci sono dei precedenti molto interessanti. Non ne parleremo oggi. Ma direi a questo punto lancio appunto questa corsa all'indietro che dicevo. Perché c'è un viaggio famoso invece precedente, che è lo straordinario viaggio di Gulliver. The Gulliver Travel. Bellissimo. A me anche questo piace molto, devo confessare. Siamo nella seconda metà del Settecento e Swift fa il resoconto dei suoi viaggi presso particolari popoli, parodiando lo stile del resoconto di viaggi avventurosi che c'erano in quel periodo. Quindi è vero, non per ricollegarsi. Comunque c'erano. Certo. Già nel 600 appunto c'erano i grandi viaggi di esplorazione, a quel punto nel 600 e inizio del 700 non erano più i portoghesi e gli spagnoli a girare il mondo, ma erano gli inglesi e i francesi. E appunto poi Jules Verne, come francese, all'apice del colonialismo francese, può immaginarsi i suoi grandi viaggi. Il libro fu pubblicato pochi anni dopo lo straordinario successo di Robinson Crusoe di Defoe. Per l'appunto. Che non è un viaggio, è un naufragio di per sé. Ma è un viaggio nell'animo umano, è un viaggio comunque in un posto esotico, lontano dagli europei. Quindi comunque era un viaggio in qualche modo, no? Sì, chiaramente ricordiamoci, l'abbiamo detto tante volte quando parlavamo della letteratura di questi anni, grande era il mito dell'esotismo, quindi già il fatto di parlare di un popolo lontano affascinava, come se si stesse trattando di alieni o di persone non umane. Questo nel bene e nel male, nel senso, ovviamente c'era una forte componente di matrice colonialista ideologica, ma c'era anche un fascino che, a cui non si sapeva dare un nome, probabilmente. Esattamente. Swift qui invece un po' scardina questa, prende in giro proprio i romanzi di viaggio che invece erano spesso appunto colonialisti nel loro brutale, essere, sì. Perché sbeffeggia un po' in tutta la sua opera il sistema giudiziario, i meccanismi di potere, la politica, la presenza, l'eccessiva presenza di razionalità che porta fino alla stupidità, i vizi, i comportamenti insomma dei contemporanei, l'assurdità delle convenzioni sociali, l'irrazionalità della guerra, insomma tutti i motivi che portano l'uomo poi a andare in giro per il mondo, economia, conflitti religiosi e non, dispute politiche, eccetera eccetera. È qualcosa di diverso in questo viaggio, è per quello che ci stava di dirlo, no? Come romanzo. Sì, è un preso male di fatto Swift. È un preso male, sì. Diciamolo, però è anche molto divertente poi in realtà, perché ha insomma, queste escamotage per spettegolare dell'essere umano e dei suoi vizi, che in realtà è molto divertente secondo me. Quindi poi si immagina gli escamotage con cui parla del potere come qualcosa di questo uomo. Tra l'altro sono cose che in realtà lui probabilmente mutuava pure da prima, dal 400, dal 500, questa iconografia dell'uomo, del potere visto come un uomo enorme. Certo. Questa è una cosa che in realtà deriva dall'iconografia del 400 già, con i piccoli uomini schiavi che stanno sotto questo enorme uomo, fisicamente enorme proprio, gigantesco, che li domina, e che questa è poi l'allegoria del potere anche da un punto di vista di immagine proprio. E questo, insomma, nei viaggi di Gulliver chiaramente la ritroviamo paro paro. Assolutamente, appunto dicevamo, viaggi che tendenzialmente sono permeati da chi viaggia più intelligente di chi va ad esplorare, no? E invece lì Swift si inserisce un po', nell'utopismo, e quindi nel Rinascimento, sempre in Inghilterra, c'era stato Thomas More e Utopia, che scardina un po' la questione, per cui fuori forse c'è qualcosa di diverso. Potrebbe essere anche migliore, chissà. Moro si auspica in qualche modo che sia migliore. Sì. Comunque, insomma, interessante. Sono sempre viaggi che l'uomo cerca di fare in vari step. Jules Verne è figlio dell'illuminismo, del razionalismo, e quindi lo interpreta nel suo modo. E prima abbiamo chi invece un po' lo scardina, Swift lo scardina un pochino, no? Sì. Però nel suo pessimismo cosmico. Vabbè, sì, non era. Sì, era un po' meno ottimista, effettivamente. Però. Dicevamo che l'altro grande scrittore della fantascienza, che insieme a Jules Verne porta la fantascienza in auge, è Wells. E lui sì che di viaggi ne fa, e supera addirittura, no, il nostro piano esistenziale, perché il viaggio e la macchina del tempo, il viaggio nel tempo è anch'esso un viaggio che però va al di là dei confini umani. Ma l'abbiamo già fatta la puntata sui viaggi nel tempo? Ma sai, non me lo ricordo più. Ma perché non l'abbiamo fatta? Secondo me non l'abbiamo fatta, siamo matti. Vabbè, la faremo se non l'abbiamo fatta. Andatevela a rivedere nelle nostre centinaia di puntate. Fateci sapere. Secondo me no. Comunque sì, chiaro. Welsh assolutamente uno di quelli invece questa volta un po' meno pessimisti di Swift, è un socialista di fondo, sì. E lui esplora nel tempo le possibilità dell'essere umano di creare società diverse da quella capitalista, e in realtà non va sempre male, ci dà anche delle discrete speranze, anche perché a quel punto il mondo è stato scoperto per buona parte. Poi in realtà si continuerà a scoprire le nuove terre fino all'Ottocento, e poi tutt'oggi raramente appare qualcosa di inesplorato, ma veramente poco, anche perché ormai c'è telliti, è difficile. Quello si poteva colonizzare, l'abbiamo colonizzato tra tutto. L'altro. Niente, abbiamo un po' esaurito questi i grandi capostipiti dei viaggi, potremmo esserci scordati sicuramente qualcosa. Quindi se avete dei consigli o qualcosa che ci siamo lasciati per strada, scriveteci a postawombat@insiberia.net. Vi prego. No, però davvero volentieri. Passiamo un po', io avevo preparato un po' una carrellata di, diciamo, un po' di tipologie di viaggi per lanciare un po' lì un po' di idee di cosa ci può essere tra, come sempre, tra scrittura, romanzi, videogiochi e manga o fumetti, insomma, un po' a 360 gradi. Alcune di queste cose ne abbiamo già parlato, per esempio, appunto, ci sono tanti viaggi di esplorazione che vanno al di là dell'esplorazione di Verne, che esplora sopra e sotto i mari, ma si va a esplorare l'universo, la galassia, prima, prima la Luna, poi ci sono tanti romanzi e non solo, insomma, che parlano del nostro sistema solare, e poi chi ne esce proprio dal sistema solare. La cosa interessante poi dell'esplorazione extrasolare è che tanti scrittori e scrittrici hanno inteso che una volta che parti torni indietro, o se torni, insomma, è difficile, perché... come Major Tom ci ha insegnato. Esatto, esatto. Per cui vi ho già raccontato di Aurora, il libro che ho letto da poco, dove lì davvero, no, i nostri... insomma, non spoilerò niente, però i viaggiatori, un'intera società di viaggiatori, cioè migliaia di persone che viaggiano all'interno di questa nave che si chiama appunto Aurora, sanno che non torneranno, sanno che vanno là per rimanerci. E quindi, vabbè, tutto il romanzo, qui il viaggio in realtà è molto più interiore rispetto a tutte le premesse, perché sì, bisogna andare da qua a là in un viaggio interminabile, ma nel mezzo... Perché il viaggio è anche quello, no? Anzi, molto spesso è quasi più nel mezzo la parte, esatto, importante. Esatto. Quindi in questo romanzo ci si immagina, come vi ho già anticipato in scorse puntate, come una società cerca di sopravvivere, rimanere sana e in vita in un viaggio che dura centinaia di anni e che deve arrivare, quindi viaggia su più generazioni e che deve arrivare in fondo. Stavo guardando, scusa, mentre parlavi di viaggi senza ritorno in qualche maniera, stavo guardando per curiosità se esisteva qualcuno che aveva fatto un romanzo su Laika, sulla cagnolina nello spazio. No, sì, però ho trovato un graphic novel, in realtà. Primordial? Laika proprio si chiama, di Nick Abadis, del 2008. Quindi, però in realtà è la storia del suo viaggio, questo graphic novel. Indagheremo, perché mi incuriosisce. Però Laika, a me mi è sempre stata simpatica. È un po' così, però... No, infatti c'ho ragione anch'io. C'è Primordial, che è un fumetto uscito l'anno scorso, mi sembra, 2 anni fa, infatti mi ricordavo, che parla anche di Laika proprio. Vedi. Sì, infatti nella copertina ci sono delle scimmie, c'è un cane con un'aureola. Oh, santa Laika. Esatto, e poi dietro la bandiera americana, chiaramente, e alcune piattaforme di lancio. Primordial, super consigliato. Magari uno di questi giorni ve ne parlo meglio. Me lo rileggo un attimo, perché ora rischierei di dirvi di piscate, però sono sicuro, perché tira in ballo anche Laika, appunto, proprio. Molto bene, t'ho portato fuori strada, ma era così, associazione di idee. No, ma è così che funziona. Vi ho già parlato anche di Outriders, invece un videogioco, appunto, dove di nuovo l'umanità va ad esplorare nuovi pianeti da colonizzare. Qui invece il viaggio non ci è tanto raccontato, il viaggio poi è invece lì nell'esplorazione di un mondo che non conosci e che hai visto solo lontano con il binocolo, no, col binocolo, con come si dice, insomma, gli osservatori, che però vedono roba che è successa anni fa. Quindi quando arrivi là bello. Non cioè, è veramente troppo tardi, è sempre troppo tardi. Esatto, cioè te puoi partire dicendo, vabbè, sì, potrebbe essere, quando arriviamo è buono. E invece quando arrivano gli va malissimissimo, proprio che malissimo. Che tragedia, è sempre in ritardo, sì, perenne ritardo, malissimo. Poi ci sono delle cose, questa tempesta elettromagnetica che non avevano potuto rilevare da laggiù, evidentemente una tecnologia non abbastanza avanzata, che porterà gli esseri umani non solo ad avere delle mutazioni pesanti, e a quel punto non sono io. E a quel punto queste mutazioni però ribaltano un po' i fattori di forza, e per cui chi era, diciamo, a livello di società più in basso, in qualche modo, con questi poteri può prendere il sopravvento. Ah, però... e quindi si sbarellano le carte. È un casino. Cioè, arrivano gli umani e subito una guerra civile fra gli umani, diciamo. Cioè, ci riassumendo, poi è un po' più complicato. Perché una volta che ci poteva esatto. avere... vabbè. Il viaggio lo troviamo anche nella nuova, nel nuovo arco narrativo di The Expanse, che ne abbiamo parlato svariate volte. Non c'è un viaggio all'interno delle prime parti, nel senso sì, la... come si chiama la nave? La Rosinante. La giusto. Rosinante è, sì, è un'astronave che viaggia con questi nostri, con questi nostri protagonisti all'interno del sistema solare in uno scontro appunto fra Terra, Marte, che è a sé stante indipendente, e i poveri come si chiamano? E io sai che confesso di non averlo spaziali. Ancora visto. Ah, non hai visto The Expanse? No. Molto male, molto male. I spazzini. Bellissimo. No. Ok. Mi viene gli spaziali, ma no, gli spaziali è un'altra cosa, perché per l'appunto ora mi sono visto Gundam The Origins. È molto interessante, però devo dire, non gli ho mai dato credito, invece sì, c'è del buono in ciò. Comunque ne parleremo in altro momento. Comunque lo scontro tra queste tre, diciamo, entità e i nostri protagonisti nel mezzo, che saranno un'unione o distruzione, insomma, a seconda, è molto interessante. A un certo punto però questo universo non ci basta più, perché c'è questa sottotrama di questa molecola, diciamo, che sembra voler distruggere un po' tutto, da chi è, da come è arrivata. Sembrerebbe esserci di qualche extrasolare che l'ha fatta arrivare, ma perché, per come, a cosa serve. Si aprono dei grandi portali che ci portano in infiniti mondi. E lì, appunto, gli spaziali, che sono quelli che abitano nello spazio, fondamentalmente rivendicano la proprietà di questi portali e di poter andare in tutti i mondi a farsi i cazzi loro e non stare sotto l'egemonia di Terra. No borders. Esatto. E chiaramente invece la Terra, dicendo che non è pericoloso, bisogna andarci a piedi di pombo perché il rischio è di farsi del male, chiudiamo tutto, non vuole. Quindi il nuovo arco narrativo è questo, cioè... da una parte si sa che questi viaggi potrebbero portare a entrare, perché quando tu esci apri una porta, quando guardi l'ignoto guarda dentro di te, ecco, un po' è quello, quindi c'è questa cosa qui, però nel mentre c'è anche la voglia di libertà, di non avere confini e di non avere qualcuno che sempre ti debba controllare, ma di formare una società come vuoi. Molto interessante, speriamo che vada bene, perché insomma, chissà. Cioè, in mano a Amazon, quindi malissimo. Vabbè, dai, mi hai convinto e lo guarderò. Farò Guardo, questa perché cosa. Secondo me è una delle poche serie di fantascienza belle fatte negli ultimi... Sì, perché tra l'altro veramente abbiamo brascato una cagata il fondo del barile. Visto, sì, purtroppo sì. Gioco, invece, videogioco di viaggio, puro viaggio, che penso di aver già parlato, di cui ho già parlato, ma veramente bellissimo, è No Man's Sky. No Man's Sky, tu impersoni proprio un viaggiatore. Ti svegli a un certo punto all'interno di un universo sconosciuto, non sai chi sei, non sai perché sei lì. Lo scopo di tutto il videogioco è scoprire chi sei, perché sei lì, e capire come funziona l'universo. La cosa interessante di questo gioco è che, vabbè, è tutto fatto proceduralmente, quindi ogni pianeta, e sono quasi infiniti i pianeti su cui puoi proprio atterrare e visitare, sono ognuno diverso dall'altro. Quindi è tipo esplorativo proprio? Sì, esplorativo, okay. Con questa sottotrama in cui devi scoprire chi sei e fondamentalmente capisci fin da subito, e per capirlo devi andare verso il centro della galassia. Però è lontano, cioè... arrivaci. Quindi è un po' esplorativo, un po' è di costruzione, cioè devi farti la tua base, devi avere i materiali per costruire la tua base, e allora poi i materiali per costruire potenziare la tua astronave, e allora poi con quella astronave potenziata a un certo punto riuscirai. La cosa interessante è che sei circondato da razze aliene diverse, che parlano le loro lingue. Certo. E te, cazzo, cazzi tua, non le sai le loro lingue. E come fai? Armeggi? Impari a tentoni e piano piano scopri, è bellino, perché parlando con gli alieni, poi magari li fai arrabbiare perché rispondi in maniera sbagliata, però scopri parole, piano piano parole, finché non riesci a sapere abbastanza vocabolo da capire bene o male. Da fare una discussione normale. Esatto, molto bellino, molto interessante, con finale a sorpresa veramente non vi dico. Scoppiettante, perché ti ribalta tutte le certezze che avevi avuto fino a quel momento. Piuttosto consigliato, devo dire. Tra l'altro bellino è che ogni tanto ci sono queste grandi campagne di esplorazione di tutti i giocatori del mondo, chiaramente legate ai server europei, sì, è un, insomma, a seconda di dove sei. E quando partono queste campagne, tutti bisogna andare verso un posto facendo varie missioni nel mezzo. E tu, ogni giocatore, quando arriva nei vari pianeti dove ci sono le missioni, può lasciare suggerimenti ai viaggiatori bello. Successivi. E quindi ti trovi robe scritte in tutte le lingue. Molto molto bella come cosa, devo dire. Bello. Ti senti libero. Collaborativo anche. Sì, quindi. E poi finalmente essere razza umana che collabora. Oh. Finalmente. Comunque, bello. Ci sono altri tipi di viaggi, ci sono i viaggi interrotti invece anche, mi è venuto in mente mentre pensavo a questa puntata, cioè viaggi in cui succede qualcosa per cui il viaggio si interrompe. Perché in effetti finora vi abbiamo parlato di viaggi che in qualche maniera, non tutti vanno a finire bene, però no. Di fatto insomma ci arrivi in fondo, in qualche maniera. Esatto. E qui invece si parla di viaggi che, bello tutto, bella la partenza, bella la preparazione, ma non va bene, proprio... Malissimo, malissimo, il viaggio si interrompe e quindi il viaggio poi è un altro viaggio diverso, spesso va a studiare anche l'interiorità dell'essere umano, perché a quel punto quando sei da solo nel niente e sai che tendenzialmente difficilmente qualcuno ti... O la speranza... La grande se non ti abbandona mai, o lo grande sconforto, o mille altre questioni. E quello c'è fior di lettera, esatto. Anche di cinematografia, devo dire. Io ho pensato principalmente a quella, non l'ho scritto, ma tipo anche Alien, esatto, rientra in questo. Stavo pensando proprio a quello. Anzi, è un po' per antonomasia, perché poi è proprio grazie a un viaggio che l'Alien riesce poi ad evolversi nell'Alien definitivo, e poi tutto il resto, anche Prometheus, gli ultimi che hanno riprendo, è proprio lì un viaggio di esplorazione, lì quasi archeologico, che però poi sì. È un casino, se tutte le volte è un casino. Sì. No, mi viene da suggerire, se non ve l'ho già fatto, credo di sì, ma un manga che sta uscendo ora, molto interessante, che si chiama Leviathan, e qui è un'astronave di viaggiatori. Va bene, una come se fosse un volo di linea tra okay. un pianeta e l'altro, dove una scolaresca sta facendo la sua gita, quindi una roba anche bellina, dove inizia, dove ci sono i bimbi, e anzi bellina è un cavolo perché si inizia subito con scene di bullismo e okay. Però insomma comunque una scolaresca che va in viaggio verso la Terra, tra l'altro gente ordinaria, diciamo. Ordinaria. Niente, fondamentalmente un asteroide una pioggia di asteroidi distrugge questa gigantesca astronave. Ah, beh, così, ciao. Boom. Bene, è andato male subito, direi. Subito. Un po' come è un po' una Costa Concordia del ok. C'è lo schettino, esatto. E si chiudono tutti i boccaporti, chiaramente ogni sezione viene resa staccata da quell'altra, in modo tale che se ci sono falle, no, nello scafo, se tu chiudi tutto ermeticamente puoi salvare in attesa dei soccorsi. Che poi... buona immagino, vabbè, no, no, perché si scoprirà poi ben presto che è una rotta dove non si fa molto spesso. Ah. E lo schettino di turno ha evidentemente preso una scorciatoia per arrivare prima, ha fatto oh, una no. cazzata. E quindi, ma tutto il mondo è paese, anche l'extramondo. Esatto. La cosa interessante invece di questo viaggio interrotto è il viaggio interiore, in particolar modo del nostro protagonista, che insieme a, diciamo, la coprotagonista o anch'essa protagonista in realtà, questi due ragazzini sentono dal robot di sicurezza unico, robot presente nella loro area di astronave, che dice all'insegnante, niente, butta male. Se vuoi, però, c'è un sistema di ibernazione per aspettare i soccorsi. Ah, figo! Ah. Quanti posti ci sono? Uno. Ma come? Uno ne hanno lasciato. Ma come? Perché per fare spazio a cabine e aumentare gli introiti, certo. Hanno levato tutti questi sistemi qua. Ne è rimasta uno solo. Schettino. Esatto. No, no, Schettino sembra essere morto. Ah, vabbè, gli andava che è male, va bene. La storia è di loro due che sanno questa storia qua e quindi... diciamo che la ragazzina gli dice subito: non lo dire a nessuno. Non lo dire a nessuno, è inutile, fai solo casino. E il bambino però è un bambino. A non riesce a tenere segreti, ci succedono cose su cose, ci sono i bulli che comunque in qualche premono. modo premono. E quindi insomma questo bimbo nel capire cosa fare farà solo casini. Vuota il sacco. E è un po' horror, non è horror però è tragico questo manga, per cui piano piano muoiono sempre più persone. E alla fine ne rimane uno e quindi si è risolto il problema. Non si sa, siamo al volume 3, al volume 4 scopriremo, ne sono già morti parecchi. Quindi, ecco, quindi si è ridotta comunque la... Molto ridotta. Boh. La cosa interessante è che è una narrazione vista principalmente da bambini. Certo. E gli scontri umani che solitamente vediamo tra uomini e donne imbruttiti dalle avversità, e qui sono bambini. E come reagiscono i bambini in questa cosa qui? È interessante. Questo è uno dei viaggi, uno degli esempi di viaggi interrotti. Poi, Punto di non ritorno. Grande film. Qual era Punto di non ritorno? Ho un lapsus, perché ce l'ho un po' in mente. Sì, secondo me l'hai visto. Anderson innanzitutto. Ah. Paul Anderson. È del 97 e è fantascienza un po' horror, che tendenzialmente, come abbiamo detto, Alien, questo, cioè quelli che succede qualcosa e il viaggio si interrompe, hanno sempre una viratina horror in qualche modo. 2047, una trasmissione rivela l'insperata riapparizione nell'astronave Event Horizon, ufficialmente andata distrutta in seguito a un incidente 7 anni prima. Questa cosa quando succede nei film non è mai buona. Cioè, no, esatto. Non è che dici, Ale... È ricomparsa. No. Bene, lasciatela lì. Esatto. O mandaci dei robot, non lo so. No, invece c'è sempre uno che deve andare a vedere... Ma vai te! E succede un casino. Esatto, e appunto viene inviata chiaramente un'astronave con tra soldati e dottori, no? Come sempre le compagnie di esplorazione sono composte tra ingegneri, dottori, e però i militari ci sono sempre. Ma ci mancherebbe. Esatto, e niente, dopo il lungo viaggio alla volta del pianeta Nettuno, nella cui orbita è riapparsa appunto la Event Horizon, nulla, ci sono un po' di rivelazioni, chi guida la spedizione è colui che ha costruito l'astronave, quindi ci sono degli interessi dietro. Fondamentalmente la cosa interessante è che l'Event Horizon ha un trasferitore gravitazionale, no? Dicevamo dei propellenti strani, inventati nella fantascienza letteraria, non nel tempo. E quest'ultimo è in grado di generare un buco nero artificiale la cui gravità viene usata per curvare lo spazio-tempo e permettere così all'astronave di saltare verso un qualsiasi punto dell'universo. Ma che bella idea! Geniale, non può che non andare bene. Esatto. Tra l'altro, la questione dei buchi neri spesso c'è nella fantascienza. Insomma, diversi film ho visto. Dai, cioè, il buco nero è veramente. Cioè, come fa a non suscitarti subito un milione di parole, scritti? Sì. Ci sta. Niente, questo è un po'. Appunto, loro vanno ad esplorare. La sola trasmissione pervenuta dopo il ritorno dell'astronave è un audio confuso in cui si distinguono grida terrificanti e una voce che pronuncia la frase, e molto spesso viene tirato il balle in latino, che dice libertate me, cioè salvatemi. Oh. Però in latino, come? Perché questo balle in latino? Ma come? Vaticano. I membri della squadra appunto salgono sull'astronave e trovano un massacro e strane letture che indicano forme di vita imprecisate e diffuse in tutta l'astronave, quindi l'astronave in realtà non è vuota. Te pareva, ma perché? Era stata su Proxima Centauri l'astronave, qualcosa è successo laggiù e qualcuno forse, o qualcosa, è salito sopra l'astronave. Insomma, non voglio spoilerare niente. Quindi, questo è un altro caso che spesso troviamo, cioè astronave che scompare e poi riappare all'improvviso. E questa riapparizione porta con sé spesso dei guai. Interni alla nave, che seguono la nave, insomma, c'è sempre, come dici tu... Ma c'è sempre anche una componente in questi film, romanzi, eccetera, di esplorazione dell'ignoto e di qualcosa che non si è riuscita a esplorare, ma chiaramente magari spesso viene metaforizzato e quindi il viaggio si interrompe, l'astronave scompare e poi riappare, ma la realtà è come se si volesse anche un po' rappresentare quello sconforto che prende l'essere umano quando prova a indagare un qualcosa, dei fenomeni, a esplorare, e poi a un certo punto si blocca e fa i conti con la propria finitezza, il proprio fatto che non, che effettivamente non riesce a capirli certe cose, non, e devi rinunciare in qualche maniera, oppure non ti sai spiegare. Magari arrivi in fondo a un esperimento ma non ti sai veramente spiegare cosa è successo, e quindi spesso queste cose qua sono anche metafore per voler significare questo senso di spaesamento, di anche di un po' di sconfitta, se vogliamo. Sono d'accordo. E un po' i buchi neri sono un po' le nuove frontiere, non si sa cosa c'è nei buchi neri oggettivamente, tra l'altro non si sa, e quindi è chiaro che lì l'immaginazione viaggia. Nel caso del punto di non ritorno, questo ve lo posso dire, ben presto si scopre che di là dal buco nero non c'è Proxima Centauri in sé, ma c'è proprio un altro al di fuori dello spazio e della scienza, c'è qualcosa di oscuro, quindi che trasforma capillarmente i vari componenti della ciurma, ecco. Questo, vabbè, fa veramente il pari con il fatto che quasi sempre l'essere umano ha avuto paura dell'ignoto, non sempre, però insomma molto spesso, e che comunque di fatto se la scienza è stata spesso, quasi sempre usata, la tecnica come grimaldello, strumento per riuscire un po' a vincere questa paura, come se tu avessi un'arma in più, visto che ti trovavi da sola e nel vuoto, questo è qualcosa che ti può dare una mano a vincere questo senso di spaesamento. E poi quando però vedi che la scienza non ti basta, vedi che le scoperte che hai fatto non sono comunque sufficienti per spiegarti le cose, la spiegazione che ti dai è sempre negativa. Comunque i buchi neri di base fanno paura, l'ignoto ti fa paura, difficile che troverete un film di fantascienza che si immagina una navicella sparita che ritorna ed è stata in un posto pazzesco con gli astronauti che ti dicono: no, bomba, abbiamo visto una roba bellissima. No, generalmente l'ignoto è sempre portatore nell'immaginario umano di oddio, sventure o chissà che, e questo fa parte delle nostre paure ancestrali probabilmente. Esatto, ho citato anche The Black Hole, il buco nero, proprio per collegarmi a questa presenza del buco nero, perché siamo negli anni 70 invece, però ci sta di citarlo, perché è un viaggio interrotto appunto, a un certo punto nella loro esplorazione questa astronave trova un buco nero con un'astronave a sua volta davanti, la Cygnus, che sta lì intorno, e quindi si ferma questa astronave terrestre, la USS Palomino si chiama l'astronave, sì. Vabbè. Che stava tornando, diciamo, e quindi il film è tutto, è molto famoso perché ha vinto diversi premi Oscar, e è uno della Disney, purtroppo, però è uno dei primi film mentre Guerre Stellari è analogico, cioè c'è pupazzetti fondamentalmente, certo. Piccole astronavi, ecco. Questo è uno dei primi film di fantascienza in cui vengono usate invece gli effetti speciali digitali. Brava, gli effetti speciali digitali. Beh, la Disney, cioè anche ora, l'odiatissimo Tron, film orrendo, brava, però era pianeristico da un punto di vista, esatto, di produzione. Esatto, e anche questo film si pone all'interno di questo pionierismo, tra virgolette, quindi insomma molto famoso per questi effetti speciali, e anche qui insomma si cerca di capire da questa astronave vicino a un buco nero, però questa volta questa non è scomparsa, è lì, e vogliamo capire che ci fa lì. Riescono poi a salire a bordo rischiando la vita perché il buco nero ti riattrae, e troveranno un solo essere umano sopra. Poi il resto è tutto robotico. Vabbè, insomma, un classicone che la Disney volle produrre per combattere lo strapotere di Guerre Stellari. Secondo me non c'è riuscita granché, però, no, però comunque magari è un film da riscoprire. Altre citazioni così veloci mi viene da... Non abbiamo, tipo Galaxy Express. Beh, dai. Se non è un viaggio quello... Ne abbiamo parlato quando parlavamo chiaramente del compianto autore, però effettivamente non ne avevamo parlato forse così nel dettaglio. No, esatto, perché dovevamo parlare di tante altre cose, però anche qui è un treno che viaggia all'interno dello spazio. È vero, dai. E è un viaggio a tutti gli effetti, paghi un biglietto per salire e ti trasporta di qua e di là, e i nostri protagonisti faranno un viaggio, perché poi in realtà non vengono trasportati di qua e di là nel senso che devono andare da un posto a un altro, ma scappano fondamentalmente, e quindi si trasformerà in un viaggio di vita, ma, insomma, ne abbiamo già parlato. Diciamo che su questo fronte qua il mondo videoludico chiaramente ha una marcia in più, perché puoi creare attraverso quando hanno inventato insomma certi processori grafici e delle cose veramente incredibili, dove puoi viaggiare con tu stesso con l'astronave in giro per l'universo. Eh beh, certo. Ci sarebbero tanti titoli da raccontarvi, vi racconto però invece qualcosa di particolare. Per esempio FTL Faster Than Light è un videogioco dove il viaggio è non si misura in risultati o missioni compiute, ma in minuti di vita. Ah. Tu devi riuscire a potenziare la tua astronave, a riuscire a far sì che non finisca l'ossigeno, a creare nuovi abitacoli, per far sì che il viaggio possa continuare. Ok. E quindi guadagnare minuti di vita, cioè minuti di viaggio. Cosa strana e interessante che non spesso si trova. O anche Space Engineering è un altro dove tu sei devi riuscire a riparare tutti i danni, insomma cose diverse dal solito. Poi ci sarebbero mille titoli da raccontare, appunto tra cui ci sta No Man's Sky. Ci sono dei giochi molto interessanti invece che sono dei viaggi di esseri umani o e non, dove impari dai tuoi errori, nel senso che tu, quando, per esempio, Returnal è uno dei più recenti, uscito, non mi ricordo, qualche anno fa, l'anno scorso, dove tu esplori i pianeti, lo esplori, sono pianeti pieni di mostri, rischi la vita ogni 2 secondi, se muori, non ci sono salvataggi, riparti dall'inizio del pianeta, il pianeta è completamente diverso. Ecco. Porca miseria. No, devi rimetterci da capo. E lì non, quindi quello che impari non ti serve a niente. No. Vediamo il Returnal e non serve a niente. Niente. Devi andare avanti, a meccaniche di gioco, sì, quelle magari te le puoi un po' immaginare. È come per me l'informatica. Comunque. Ecco, vedi? Cioè, imparo una cosa e poi il giorno dopo me la sono dimenticata e devo ricominciare da capo. Molto bello. Va bene. Vabbè, avrei mille altri videogiochi da raccontarvi, non ve li racconterò. Vediamo invece che segnavi anche questa raccolta di racconti. Brava, che infatti sono fantascienza un po' più classica, un po' più conosciuta forse, dove però effettivamente Einaudi ha messo insieme alcuni tra i racconti più interessanti legati ai viaggi nello spazio. Esatto, è un libro che non è facile da trovare, però magari sull'internet si riesce a scaricare, secondo me sì. Sì, dai. È una raccolta, Ballard, Bradbury, Dick, Mattson e molti altri, si intitola Viaggio nello spazio, e c'è un bella raccolta di viaggi interessanti, relazioni su una stazione spaziale non identificata, cioè Ballard, Block, lo strano volo di Richard Clayton, Bradbury, Caleidoscopio, Brown, niente di Sirio, Dick, spero di arrivare presto. Sirio è un bellissimo titolo. Sì. Con lui che sussurrava nelle tenebre, Lovecraft, chiaramente. Lovecraft ne abbiamo parlato nella monografia, è veramente un autore trasversale. Sì, ha scritto di tutto. E in tutta anche nelle nuove produzioni moderne. Quanto si sente Lovecraft? No, assolutamente ha influenzato anche i suoi contemporanei e anche poi ora a venire. Fra l'altro vedevo invece in questi racconti anche alcune cose più bizzarre, tipo Salgari alla conquista della Luna. Non sapevo avesse scritto anche lui. No, neanch'io, infatti. E ho anche, vabbè, Shackley è bellissimo. Robert Shackley, mai toccato da mani umane, ve lo consiglio, è bellissimo. Sì, non l'ho letto. Stupendo, bellissimo. Shackley è secondo me divertentissimo, ma in particolare questo racconto è molto bello. E anche Voltaire addirittura. vedevo tra... Sì. Insomma, devo dire una chicchetta che ho trovato così. Davvero? Sarebbe da leggere, da trovare da qualche parte, magari sotto in biblioteca. Sotto il bistro di Wesh, mai sentito. Molto bello. Sì, probabilmente anche qui vi sfidiamo a trovarlo, magari ravanando nel peer-to-peer, se ancora oggi ne usufruite e fareste bene a farlo. Ma insomma, sì, di base... si trovano secondo me queste cose. Ho visto c'è un nodo Thor in, come si dice, nel polo sud. Uno, wow, incredibile, che vedevo, la guardavo l'altro giorno. Vorrei andare ad abbracciarlo, cioè, non so, poi avrò freddo. Chi è? Però... da c'è, boh. Grande, come gli si vuole bene. Assolutamente. Chi sarà poi, tra l'altro? Io mi immagino che saranno lì tutti a dire: oh, chi sarà questo? Poi io, cioè, l'ho visto all'interno, poi c'era legato un meme dove c'era un pinguino. Che faceva il nodo Thor. Allora salutiamo il nostro amico o amica nodo Thor del polo... Dove? Il polo nord, hai detto? No, polo sud. Polo sud. Ancora peggio. No, vabbè. Che meraviglia, va bene. Sarà una foca. Io voglio pensare che è una foca. Ok, basta, direi che non ho altro, cioè ne avrei miliardi, ma insomma, abbiamo reso l'idea, dei quali viaggi direi ci sono. Direi decisamente di sì, d'altronde era un argomento che è un po' un macro argomento che, come avrete intuito, scatena poi altri 10.000 rivoli e sotto argomenti, ma andava fatto, andava esplorato. E quindi a questo punto vi potremmo dare appuntamento tra 2 settimane. Abbiamo in ballo diverse puntate, abbiamo anche degli ospiti che vogliono, premono alla nostra porta per entrare nella nostra regia. E quindi insomma, in realtà vi stupiremo con puntate ricche e anche con altre voci, fra l'altro. Evviva, non vedo l'ora. Le porte di Tannhäuser, appunto, sono sempre aperte per chiunque abbia voglia di sognare, immaginare in libertà. E quindi nulla, ci sentiamo fra 2 lunedì. A presto, ciao ciao. Wombat. Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be, the foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. È sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra. Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.